Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, stasera parliamo di uno dei comportamenti più odiosi, o almeno considerato come tali, però ampiamente frequentato da tutti gli umani, e cioè il tradimento. Il tradimento se ne parla quasi tutti i giorni, anche nelle nostre cronache politiche. Assistiamo allibiti ai passaggi dei parlamentari da un partito all'altro e naturalmente li accusiamo di tradimento rispetto agli elettori, ma questo è soltanto un piccolo episodio rispetto alla grandezza fosca che questo comportamento può avere o ha avuto nei millenni precedenti. E studiare il tradimento quindi diventa un'occasione anche per rileggere sotto una chiave diversa la storia, e a questo ci spinge il libro di uno storico, Marcello Flores, che è docente a Siena di storia dei diritti umani. La settimana scorsa abbiamo ricordato la ristampa del suo libro sul genocidio degli armeni, che adesso invece pubblica un libro nuovo, si intitola Traditori, una storia politica e culturale, pubblicato dal Mulino, 29 euro, 556 pagine. E questo volume, nonostante la mole, è soltanto il primo di due volumi, perché l'indagine di Flores lascia fuori questa prima tappa, lascia fuori l'ultimo secolo, al quale verrà dedicato il successivo volume. Sul tradimento Flores ha riflettuto per qualche anno, partendo da alcuni studi che conduceva su Bukharin, l'ex braccio destro di Stalin, che questi avrebbe fatto processare e giustiziare, accusandolo appunto di cospirazione. Poi Bukharin sarebbe stato riabilitato soltanto nel 1988 da Gorbaciov. Insomma, il tradimento è una parola, una pratica, un'accusa che attraversa la storia, eppure si presta a delle letture molto diversificate. Infatti scrive Flores che, se osserviamo il tradimento nelle diverse epoche, se guardiamo i traditori nel loro contesto storico irripetibile, ci accorgiamo che l'idea di tradimento, la percezione e il giudizio che ne danno i contemporanei e i posteri cambia forse più profondamente di quanto non ci dicano le definizioni filosofiche, le formalizzazioni giuridiche, le tipologie costruite dai modelli sociologici. Tradimento può voler dire molte cose. Chi è il traditore? Si chiede Flores, e risponde: nel corso della storia l'attributo di traditore è stato dato agli apostati, agli eretici, ai convertiti, ai rinnegati, ai trasfughi, agli ammutinati, ai disertori, alle spie, agli informatori, alle quinte colonne, ai collaborazionisti, ai ribelli, ai rivoluzionari, ai terroristi, ai voltagabbani, ai pentiti e ai grumiri, per non parlare degli infedeli e degli adulteri all'interno della sfera privata. In questo primo volume si parte allora con un rapido esame del tradimento nell'età classica, a cominciare da quello che segnò le origini di Roma, che nascono con un tradimento, cioè il tradimento di Tarpea, che aprì le porte della rocca del Campidoglio al re Tito Tazio, incantata dai gioielli e pare anche dal fascino del sovrano. E poi si giunge rapidamente al tradimento nell'età moderna, e di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera Marcello Flores. Buonasera. Marcello Flores, partiamo per parlare del suo libro da una questione di metodo. Lei proprio all'inizio scrive che chi vince non è mai un traditore. Insomma, prevale più la realtà di chi tradisce o la montatura di chi, avendo vinto, e di chi, detenendo il potere, accusa gli altri di tradimento? Ma certamente la caratteristica principale del tradimento è che ci sia qualcuno, un potere, che è in grado di stabilire che qualcuno ha tradito. Questo è certamente il punto di partenza. Poi che si tratti di un'accusa in qualche modo veritiera rispetto alle leggi, veritiera rispetto alla realtà storica, o invece costruita per colpire politicamente degli oppositori, questo è un secondo aspetto che si può vedere. Ecco, il paese che affina meglio, almeno all'inizio della sua indagine, l'idea di tradimento è forse la Gran Bretagna, dove addirittura un re viene condannato per tradimento. Che cosa ha fatto sviluppare in Gran Bretagna questa sensibilità al tema del tradimento? Ma intanto perché è da più lungo tempo, da metà del 300, che esisteva una specifica legge sul tradimento, che con qualche aggiornamento è andata avanti praticamente fino a tutto il 700, è stata cambiata un po' solo nell'800, e poi perché lì era, nel corso della storia britannica, molto evidente che la legittimazione del potere era quella che poteva permettere di condannare gli oppositori, i futuri possibili oppositori, come traditori o addirittura successivamente addirittura di riabilitare chi era stato accusato di tradimento una volta che l'andamento della storia era tornato indietro sui suoi passi, per così dire, come avvenne dopo il ritorno di Carlo II sul trono, che riuscì a accusare e mandare sulla forca per tradimento coloro che avevano condannato e fatto giustiziare suo padre Carlo I. Ecco, questo aspetto richiama una citazione che lei mette a esergo di un capitolo di un grande traditore, o almeno è considerato tale, cioè Talleyrand, che diceva: il tradimento è una questione di date. È proprio così? Ma Talleyrand in realtà non fu mai accusato di tradimento, e questa è la sua abilità, di riuscire a rimanere sempre al vertice del potere e quindi nel poter essere colui che poteva accusare gli altri di essere traditori, ma di non ricevere lui stesso quella. Avendo passato praticamente tutti i poteri dalla rivoluzione al Termidoro, a Napoleone, al Consolato, all'Impero, alla Seconda Repubblica, evidentemente parlava per competenza particolarmente robusta e forte da questo punto di vista. Ma lei che idea si è fatto? Era o no un traditore? Io direi che Talleyrand ha sempre giustificato il suo operato dicendo di operare in nome della grandezza del paese, della grandezza della Francia, e da questo punto di vista, avendo accettato di inserirsi nei gangli del potere quando questo anche si trasformava in modo anche violento, rivoluzionario con le restaurazioni, lo ha fatto. Quindi perché trattarlo da tradimento? Noi potremmo forse chiamarlo piuttosto un grande opportunista politico, però giustamente credo che lui si è difeso dicendo: io ho fatto sempre gli interessi dei francesi. Ecco, anche gli Stati Uniti sono nati in qualche misura nel segno del tradimento, perché hanno tradito loro stessi la madrepatria, quella che era la madrepatria, la Gran Bretagna, e poi sono stati protagonisti o palcoscenico di uno dei grandi processi per tradimento dell'Ottocento, cioè quello a un vicepresidente, un ex vicepresidente, Aaron Burr. Come mai negli Stati Uniti c'era questa sensibilità così forte? Beh, la sensibilità forte è proprio per quello che ha detto lei, cioè che fin dall'inizio avrebbero potuto i coloni americani essere accusati dal re Giorgio di tradimento, cosa che non avvenne per una serie di motivi, anche di opportunità ovviamente, e gli americani furono i primi a inserire nella loro Costituzione, direttamente dentro la Costituzione, il reato di tradimento, che costituì all'inizio nello stesso tempo un modo per ampliare un po' il ventaglio dei possibili tradimenti, ma anche per ridurlo poi a una configurazione legislativa molto precisa, in cui era la Corte Suprema a dover decidere chi fosse davvero il traditore o no. E quindi ci furono molti casi come quello del vicepresidente Raymond Burr, ma poi nel corso dell'Ottocento, dopo soprattutto la guerra civile, gli Stati Uniti abbandonarono molto l'idea di utilizzare il tradimento, se non verso coloro che erano pochissimi, e furono pochissimi, che davvero pensavano di poter far guerra agli Stati Uniti. Ecco, questa indagine che sta conducendo sul tradimento le ha modificato in qualche modo le sue convinzioni di storico, cioè le ha insegnato o l'ha spinta a leggere la storia in maniera diversa? Ma certamente tradimento è una categoria che, diciamo, è intrisa di relativismo, perché per quanto io abbia seguito l'oggettività delle persone accusate formalmente di tradimento dal potere, poi è ovvio che in ogni occasione, a seconda dal punto di vista di chi accusa o di chi si difende, si può mettere in dubbio se si trattasse veramente di tradimento, così come dal carattere dell'identità a cui si voleva dare la propria fedeltà e la propria lealtà. I patrioti italiani avevano una sorta di doppia identità, quella oggettiva di essere cittadini dell'impero austro-ungarico e quella soggettiva di essere cittadini di una nazione che volevano costruire libera e indipendente, ed era questa seconda che davano la loro vera lealtà, a rischio, come è successo a molti di loro, di essere condannati a morte o a lunghi anni di carcere. Ecco, oltre che degli alti tradimenti, nel suo libro si parla dei tradimenti privati, per esempio l'adulterio, e c'è un capitolo in particolare con dei succosi riferimenti letterari. Tra questi in particolare c'è un riferimento alle Liaisons Dangereuses, nel quale, lei cita Malraux, la logica della seduzione e del tradimento fanno diventare quasi i protagonisti anticipatori dell'esistenzialismo. Quindi il tradimento è anche una dimensione del vitalismo, dell'individualismo e dell'affermazione di sé. Sì, molto. Questo lo vediamo sia nel caso degli Liaisons Dangereuses e nella interpretazione che ne dà Malraux, ma lo vediamo anche in certo mondo romantico, nel fatto che un personaggio come Byron sarà l'emblema del romanticismo, con tutto quello scandalo anche che si porterà presso proprio per la sua totale libertà sessuale, al limite addirittura, come verrà accusato molto più tardi, di incesto. La letteratura è quella che però ha raccontato meglio le questioni del tradimento privato, e l'ha raccontato tanto bene che poi fu il libro che è diventato l'emblema di questa figura, cioè Madame Bovary, che conobbe le disavventure perché venne messa sotto processo proprio per istigazione contro la morale e contro la religione. Come dicevo prima, questo è il primo volume di una storia del tradimento. Il prossimo volume toccherà il corso del Novecento, dopo il 1914. Ecco, ci può anticipare? Pensa di trovare un carattere particolare del tradimento nel Novecento? Ma credo che sostanzialmente nel Novecento ci si trova di fronte a dei tradimenti che, anche se poi sono fatti da singole persone, hanno dei caratteri maggiormente collettivi, non solo perché ormai siamo in una società pienamente di massa, ma perché anche nel momento della vittoria piena della patria con la prima guerra mondiale in tutti i paesi, sono le dimensioni collettive, i gruppi che potranno essere quelli accusati di tradimento, i disertori, i gruppi di spie, mentre nel corso dell'Ottocento molto veniva ancora lasciato alla figura individuale che in qualche modo si ergeva a combattere per la propria identità, per la propria coerenza. Nel Novecento siamo in una dimensione che diventa collettiva, e anche il tradimento è un'accusa e una difesa che viene fatta più collettivamente che individualmente. Grazie a Marcello Flores, autore di Traditori. Buona serata. Grazie a voi. Abbiamo parlato di Talleyrand, che con Fouché è considerato appunto uno dei modelli dei traditori. Flores ci ha spiegato che tecnicamente non fu un traditore, ma insomma sempre viene citato quando si parla di tradimento. E allora vi segnalo un libro che è dedicato a entrambi, a Talleyrand e a Fouché. Si intitola Il diavolo zoppo e il suo compare, Talleyrand e Fouché o la politica del tradimento. L'autrice Alessandra Necci, è pubblicato da Marsilio, 662 pagine, 19 euro. Due maestri qui del tradimento, secondo l'autrice, che non devono essere però ridotti sempre a banderuole. Scrive infatti la Necci che Talleyrand e Fouché non sono usi seguire passivamente il corso delle cose, non appartengono alla categoria dei semplici opportunisti. Sottili politici, abituati a essere registi degli eventi, non si accontentano certo del ruolo di semplici attori o peggio di comparse. Da tempo sanno che vincitori e vinti nella storia si delineano con chiarezza solo alla fine della partita, e che a volte è sufficiente un granello di sabbia per fermare gli ingranaggi di un meccanismo all'apparenza inarrestabile. Fouché e Talleyrand furono due protagonisti, come ci ha ricordato anche Flores, della Rivoluzione francese. Poi furono dei grandi collaboratori, i più vicini forse a Napoleone, e poi a loro volta diventarono artefici della Restaurazione. Proprio dal ruolo che i due giocarono insieme per rimettere sul trono Luigi XVIII parte questo libro, che segue la carriera fino dagli ultimi anni dell'Ancien Régime e dai giorni più turbinosi della rivoluzione, in particolare il periodo del terrore, nel quale fu proprio Fouché il protagonista e l'artefice della caduta di Robespierre. Il libro si conclude con una valutazione dei comportamenti dei due proprio alla luce della pratica del tradimento. Napoleone di Fouché avrebbe detto: ho conosciuto un solo vero perfetto traditore, Fouché, e di Talleyrand l'ho coperto di onori, di ricchezze, di diamanti, e ha utilizzato tutto questo contro di me. Mi ha tradito tutte le volte che ha potuto, alla prima occasione che ha avuto per farlo. Un libro che Talleyrand non avrebbe voluto far circolare sono le memorie di un grande militare ed aristocratico francese, il duca di Lauzun-et-Biron, che si chiamava Armand-Louis de Gontaut, riproposte da Castelvecchi col titolo Avventure d'amore di guerra, 236 pagine, 17,50 euro, tradotto da Edoardo Restivo. Lauzun fu un protagonista della vita mondana e militare dell'Ancien Régime e in particolare si distinse accanto a George Washington nella guerra di indipendenza americana. Quando poi rientrò a Parigi, fu protagonista degli Stati Generali della Rivoluzione, salvo poi cadere anche lui sotto le grinfie del terrore di Robespierre, e venne ghigliottinato non prima di aver pasteggiato a ostriche e champagne e aver brindato con il suo boia. Il libro è interessante per i risvolti politici, non meno che per la descrizione dall'interno di una società votata al disastro come quella dell'Ancien Régime, ma che per chi ne faceva parte era una delle più scintillanti che la storia ricordi. Talleyrand nel 1818 fece di tutto perché questo libro non venisse pubblicato, perché venisse censurato, dopo che il libro era circolato come manoscritto un po' in tutta Europa, suscitando i pettegolezzi e la curiosità soprattutto tra le dame, non soltanto francesi. E a questo punto una breve interruzione, ci sentiamo fra qualche minuto. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo anche di Talleyrand, che comunque lo si voglia giudicare rimane un protagonista del mondo del suo tempo e soprattutto un protagonista dei nuovi equilibri dell'Occidente, del mondo di allora, che Talleyrand stesso contribuì a costruire dopo la caduta di Napoleone. Quest'anno ricorderemo il bicentenario del congresso di Vienna, di cui Talleyrand appunto fu un grande protagonista. E allora accosto a lui, alla figura di Talleyrand, un personaggio che non ha certo la nomea di essere un traditore, ma la nomea di essere un grande costruttore di equilibri a livello internazionale e che noi conosciamo tutti bene, cioè Henry Kissinger, che ha pubblicato Ordine Mondiale. Henry Kissinger è molto anziano, ormai 92 anni, ma è sempre lucidissimo, come dimostra in questo libro che è pubblicato da Mondadori, tradotto da Tullio Cannillo, 406 pagine, 28 euro. Kissinger, che ricordo ebbe anche il premio Nobel per la pace nel 1973 e fu segretario di Stato con i presidenti Nixon e Ford, non ci dà qui un libro di memorie, quelli li ha già scritti, ma una densa riflessione sui nuovi equilibri o squilibri che molto lo preoccupano, essendo Kissinger, come noto, un teorico della necessità di garantire un ordine, un equilibrio mondiale, e come sentite per esempio da queste righe che partono dalla nostalgia di Kissinger per i principi che avevano retto gli equilibri internazionali per secoli, fin dalla pace di Vestfalia che aveva segnato la fine della guerra dei 30 anni e che erano dei principi che stabilivano le regole alle quali sostanzialmente tutte le potenze si attenevano, e cioè i principi di indipendenza nazionale, di Stato sovrano, di interesse nazionale, di non ingerenza. Ma sentiamo adesso Kissinger. Gli Stati Uniti hanno oscillato tra la difesa del sistema westfaliano e la denuncia delle sue premesse di equilibrio di potere e non ingerenza negli affari interni come immorali e sorpassate, talvolta assumendo entrambe le posizioni contemporaneamente. Continuano ad affermare l'attualità dei loro valori nella costruzione di un ordine mondiale pacifico e si riservano il diritto di sostenerli a livello globale. Tuttavia, dopo essersi ritirati nel corso di due generazioni da tre guerre, tutte iniziate con aspirazioni idealistiche e un ampio sostegno dell'opinione pubblica, ma determinate con un trauma nazionale, si dibattono nel tentativo di definire il rapporto tra il loro potere, ancora enorme, e i loro principi. Tutti i maggiori centri di potere praticano in una certa misura elementi dell'ordine westfaliano, ma nessuno si considera il difensore naturale del sistema. Tutti stanno subendo significativi mutamenti interni. È possibile che regioni con culture, storie e teorie tradizionali dell'ordine così divergenti sostengano la legittimità di un qualsiasi sistema comune? Il successo di un simile tentativo richiederà un'impostazione che rispetti tanto la verità della condizione umana quanto la radicata aspirazione degli uomini alla libertà. Lo studioso parla dei vari protagonisti, di questo equilibrio da ricostruire, l'Europa, il mondo in disordine, come chiama il Medio Oriente, squassato naturalmente dalla presenza islamica, i rapporti tra USA e Iran, l'Asia e il ruolo che il suo paese d'adozione, gli Stati Uniti, devono giocare per costruire questo nuovo equilibrio. Come sentite, sono tutti toni attuali. Per esempio Kissinger richiama gli Stati Uniti a occuparsi di più del Medio Oriente e scrive: in un'epoca di terrorismo, suicidi e di proliferazione delle armi di distruzione di massa, la deriva verso confronti settari deve essere considerata una minaccia alla stabilità mondiale. Quindi aggiungo io, commento io, gli Stati Uniti non possono illudersi di stare rinchiusi nel loro isolamento, perché il disequilibrio che si crea in quella zona del mondo avrà un impatto devastante nel resto del pianeta. E poi parla ancora a proposito del rapporto con l'Iran, raccomanda agli Stati Uniti, Kissinger, di svolgere un ruolo di bilanciere per il futuro prevedibile. Insomma, lo statista non nasconde le difficoltà dovute soprattutto al paradosso che il mondo deve la propria prosperità sostanzialmente alla globalizzazione, ma la globalizzazione medesima provoca reazioni politiche antitetiche, e quindi bisogna trovare un equilibrio fra questa scissione, tra la scissione della gestione economica e la politica globale, che segna una sfida, dice Kissinger, alla capacità di governo, in primo luogo per gli Stati Uniti, che dovranno appunto assumersi assieme a tutti gli altri paesi maggiori responsabilità e maggiore consapevolezza dei risultati che vogliamo raggiungere. Kissinger, come ricorderete, fu l'artefice assieme a Nixon dell'apertura degli Stati Uniti e del mondo occidentale alla Cina, e ristabilì i rapporti anche diplomatici tra Stati Uniti e Pechino. E allora segnalo un libro relativo a un tentativo simile che aveva avuto luogo qualche secolo prima, esattamente nel 1685, quando in Cina giunge un gruppo di gesuiti. Sono 7-8 gesuiti matematici, fra di essi troviamo Jacques Bouvet, che appunto fa parte di questa commissione che è stata inviata dal re Sole all'imperatore cinese per scambiarsi anche delle conoscenze in campo matematico. In Cina Bouvet incontra l'imperatore Kangxi, che allora era considerato forse l'imperatore più famoso in Europa. Sta con lui molti anni. Nel 1693 Bouvet avrebbe portato un'ambasciata dell'imperatore e dei doni al re Sole, e poi torna a Pechino nel 1698 con altri 11 missionari che il re Sole gli consente di portare con sé. Bouvet andrà a Canton e morirà nel 1730, deluso purtroppo nella speranza di poter cristianizzare la Cina, una speranza che era stata alimentata anche dall'editto di tolleranza che lo stesso imperatore aveva emanato nel 1692 e che il successore poi avrebbe revocato, riprendendo le persecuzioni contro i cristiani. Nel corso del viaggio a Parigi, appunto, Bouvet pubblica un ritratto dell'imperatore che adesso troviamo tradotto da Guanda e curato da Michele Catto. Si intitola L'imperatore della Cina, 676 pagine, 14 euro. Bouvet finì con l'essere considerato con sospetto dal suo stesso ordine, i gesuiti, a causa degli sforzi che fece attraverso delle letture che venivano giudicate assai bizzarre, sforzi fatti per cercare di individuare i punti di contatto tra la cultura cinese e quella occidentale. E anche questa lettura che fa in questo libretto del potere cinese è condotta attraverso paralleli tra la città proibita e Versailles. Sentite per esempio l'attenzione che l'imperatore della Cina dedicava alla formazione dei suoi dignitari e all'intolleranza che mostrava nei confronti dei corrotti e corruttori. Non si può immaginare quale cura l'imperatore riserva nel fare una buona scelta dei mandarini importanti, particolarmente dei governatori delle province, e con quale attenzione vigila sulla loro condotta. Non contento delle informazioni che il Tribunale Supremo dei Mandarini gli trasmette circa le persone proposte per la nomina alla carica, egli ne fa raccogliere di segrete da persone di sua fiducia. Le interroga direttamente e spesso ne nomina di completamente differenti da quelle che gli sono proposte, non avendo riguardo che al merito di ciascuno. Quando trova persone di capacità insigni, le tratta con distinzione, le innalza ai più alti e più importanti incarichi, facendo loro pubblicamente onori e favori straordinari. Al contrario, il più piccolo errore compiuto in materia di governo, se l'imperatore ne viene a conoscenza, è sufficiente per farli decadere. E se qualcuno è accusato di essersi lasciato corrompere dal denaro, l'imperatore è inesorabile su tale punto, senza alcun riguardo per chi che sia. Dopo averli fatti giudicare dai tribunali nelle forme legali, non solo li allontana irrimediabilmente, ma anche li punisce con molto rigore. Abbiamo parlato dell'islamismo, ci chiediamo tutti se e come riuscirà a cambiare gli equilibri e che tipo di equilibri nasceranno da questo scontro che si è avviato in questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi mesi. Una risposta insolita è quella di Pietrangelo Buttafuoco, che ha scritto Il feroce saracino, la guerra dell'Islam, il califfo alle porte di Roma, pubblicato da Bompiani, 198 pagine, 12 euro. Questo libro che sta già facendo molto discutere, perché nel solco dell'appartenenza all'islamismo confessato da Buttafuoco, che adesso si chiama Jafar al-Sikili, l'autore respinge la lotta all'estremismo islamico sostanzialmente e identifica il conflitto che è in corso in uno scontro tra modernità e tradizione, o meglio tra nichilismo e tradizione, uno scontro nel quale Buttafuoco, dalle ascendenze intellettuali scettiche nei confronti della moderna democrazia, si colloca dalla parte naturalmente dei tradizionalisti e quindi in questo caso dei musulmani. L'attentato a Charlie Hebdo, per esempio, è la scena agghiacciante del terrorista musulmano che uccide il poliziotto di origine anch'egli islamica, il segnale per Buttafuoco di un'autentica guerra civile globale tra egemonia unipolare dell'Occidente da un lato, come lo chiama lui stesso, e ordine multipolare dall'altro. Chissà cosa ne penserebbe Kissinger, io rimango molto scettico su questo tipo di analisi, pur rispettando la dottrina e l'approfondimento con cui Buttafuoco pone i termini di una questione che, spiega, a dispetto della geografia, non è di collocazione tra eserciti contrapposti. L'argomento, infatti, aggiunge, è totalmente metafisico e finalmente, al termine del tempo, con Imam Mahdi o con Artù, se si preferisce, nella luce di una spada da cui si trae luce o di una scopa con cui si spazzano le onde, si consumerà il duello tra il nichilismo e la tradizione. E a proposito di Medio Oriente, vi segnalo una testimonianza suggestiva e poetica della vita quotidiana a Tel Aviv. È un graphic novel di Asaf Hanuka che ha raccolto le tavole pubblicate su Tel Aviv, proprio sulla vita della propria famiglia a Tel Aviv, tavole pubblicate su un periodo israeliano. Il libro si intitola K.O. Tel Aviv, diario di un realista, è pubblicato da Bao Publishing ed è tradotto da Michele Foschini, costa 14 euro. È un libro di cui è protagonista lo stesso Hanuka, con la sua famiglia colti nella vita quotidiana, come dicevo prima, a Tel Aviv, con le speranze, i timori, le attese di una famiglia normale che convive con delle condizioni spesso assolutamente innaturali. Per esempio, nella pagina intitolata Punto di non ritorno assistiamo alla scena della famiglia, del padre e della madre, che finalmente hanno potuto coronare i loro sogni, acquistano un appartamento, firmano per un mutuo e in quel momento compare sulla televisione il presidente iraniano che minaccia di sterminio Israele. E commenta l'autore: domani andiamo dall'avvocato a firmare il contratto per l'acquisto della casa, poi andiamo in banca ad aprire il mutuo e nel frattempo parte un missile e ultima scena e poi basta. Bellissime le tavole, gli effetti grafici con i quali Hanuka rende le increspature nella vita quotidiana. Per esempio, nella storia che si intitola Bei momenti, la moglie accusa il marito di essere un robot perché pensa soprattutto al lavoro, pensa soltanto al lavoro, pensa a cercare di essere connesso costantemente, lo accusa, sei proprio un robot. E quando il marito arriva nel suo ufficio, deve passare il metal detector, tutto suona impazzito, non ha armi, non ha nessun oggetto di metallo e gli viene il sospetto di essere appunto diventato lui stesso un robot. E a questo punto il confettino. Libri di ambientazione orientale sono Il povero sultano ricco e Lo scimmiotto magico. L'autore di questi libri è indicato come Noor Baba, ma in realtà i libri sono scritti, il primo da Cristina Brambilla e il secondo da Serena Daniele, sono pubblicati da PM con le illustrazioni di Barbara Bongini e troviamo in questi libri appunto il favoloso mondo orientale, dove incontreremo Scheherazade e Sinbad.